ma chi si andrà a settare a contare Martorelli? Chi è che io? Meglio San Giammarì, ciao Bacchi, buonasera. Buonasera San Maria, buonasera anche agli altri che stanno ascoltando. Buonasera, è me. Mi è soprammodulato a Bacchisio. Dai, parla Bacchi, dai. Chi è questo che mi ha soprattutto schiacciato? Mica sono piccolino io, Bacchi, Piccolino sei, San Maria, come mai? Allora, signor Tore, cosa ci racconti oggi? Dai, illuminami. Che cosa vuoi che ti racconti? Oia, Faridai. Tata, sono andato a cosa? A Auchan. Chiudo la macchina, anda a fare la base e non passi più. Si è bloccato il motorino. Poco da fare, per carità, ragazzi. È poco fastidioso, si è bloccato il motorino, provato a chiudere due golpi, ma il motorino già si sblocca. Oia, ma ho provato, non da va. Ma è detto arrivederci. Gio Maria, non l'ascolti? Ehi, a piccolino già l'ascolto. Perché vi state soprammodulando tutte e due? Fate una cosa tutte e due, passate in 27. Ma perché basso sto scendo tu? No, tu no, ma cosa? Bacchisio ti sente basso? Bacchisio che è troppo alto, lui però mi sente basso. Bacchia, io mettiti qualche cosa per sollevarti un pochettino, Io già ti sento. Ehi, non mi senti? Ehi, ti sento. Se non mi passiamo i 27 e ci sentiamo tutti. Come vi piace, l'Italia è sempre aperta. Vai tu. Avanti. Buongiorno. Avanti. Chi sei? Basta la voce, non ti intendo. Ma con chi stai parlando? Con te. Così. Basta, sì, come va? Allora, come andiamo? Adesso sì. E quando? Vai, chiudendo sto, vai. A domani, ciao. Ciao.